e con me mi faceva certe volate, però mi voleva molto bene. Se volevo ne parliamo nemmeno, veramente. Quell'anno lì fu un anno storico che io giocai in Montevarchi. Poi mi ricordo il Curti veniva dalla Roma, una partita si vinceva 1-0, a poi venuto alla fine mi ha detto un calcio di rigore l'arbitro contro il Montevarchi, io ne riparai, il povero Curti era di Montevarchi, il lunedì mattina non scappò nemmeno di casa. Ok, bene Aldo, il tuo incipit alla tua storia di Montevarchino è bellissimo e vorrei tentare di farlo ancora più bello. Tu hai giocato in anni molto particolari, fra gli anni 50 e gli anni 60, quindi hai giocato anche alcuni derby contro il San Giovanni. Bene, noi che abbiamo vissuto i derby in età molto più recente, raccontaci l'atmosfera di un derby negli anni 50 fra Montevarchi e San Giovanni. A Montevarchi e San Giovanni era la fine del mondo, perché io conoscevo gente che aveva da andare a San Giovanni o passava da Marno o passava di là dalla ferrovia e sbucava a figline, perché loro c'erano dei personaggi senza fare nomi, sicché era una guerra. Ci si vestiva a Montevarchi, perché a San Giovanni nella Fossa di Lena avevano un campo da fa schifo, e allora non ci si vestiva qui e si andava vestiti là. Finiva la partita, via a casa. Ma era la guerra, era lo spettacolo, veramente, guarda, te lo dico, chi non ha fatto un derby a San Giovanni non ha fatto nulla. Era bene anche contro il Poggio Bonzi, contro l'Arezzo, ma con la San Giovannese. E difatti quando entro in campo sportivo di Montevarchi e mi brucia sempre i piedi, ancora, non è che ti racconto le novelle. Bene Aldo, come forse saprai o forse no, uno dei pretesti di questa trasmissione è quello di indagare l'identità cittadina e quindi ricercare la montevarchinità attraverso le storie anche e soprattutto legate allo stadio e alla squadra di calcio cittadina che appunto è il Montevarchi. Se te dovessi raccontarci aneddoti o personaggi che hai incontrato nella tua carriera a Montevarchi che incarnano a tuo avviso la montevarchinità inteso come sentimento interiore, di chi potresti parlarci o raccontarci? Allora, io potrei parlare praticamente di Ugo Enzo, che è sempre stato il capitano del Montevarchi e ha sempre dato a quella maglia tanto, tanto, e lui non è mai voluto andare via perché era troppo attaccato a colori rosso blu, veramente. Anche Gianfranco Meucci era una persona che era un montevarchino d'occhio. Poi ce n'era un altro, Brachettio Ferro, che è morto. Questi sono tutti morti, ragazzi, per pazienza, io sono rimasto, ma insomma loro se ne sono andati. Anche Brachettio Ferro è sempre stato un bellissimo giocatore, ha sempre dato tutto ai Montevarchi. Poi c'era il mio amico Piero Truvia, però Piero Rovira penso lo conoscessero tutti i difensori di Montevarchi, era un personaggio tutto particolare, quando aveva la giornata bene, se non aveva la giornata ne nominava tutti i colori, sicché non voglio dire cose grosse, finivo la qui. Bene Aldo, il tuo racconto va a toccare proprio le radici della montevarchinità, almeno per noi giovani, fra virgolette, ormai ex giovani, non so come definirci, però raccontaci ad esempio del personaggio che girava negli anni 60 circa con un cartello attaccato addosso dove veniva scritto sopra contro quale squadra avrebbe giocato il Montevarchi, a che ora e se non giocavano a Montevarchi in quale stadio. Quindi te hai vissuto queste cose? Sì, ma ora il personaggio non mi ricordo il nome, però questa persona faceva questo lavoro, ma poi ce n'era anche un'altra che faceva il lavoro. Se si voleva andare al cinema per sapere chi ci davano, bisognava andare via Roma e guardare il cartello e ci portavano. C'era un signore, si chiamava Aldo, gli dava il carretto, metteva il tendone sopra e mi portava a attaccare al muro via Roma. Sicché il cinema era il Politeama come c'era l'Impero, e c'era il proprietario, si chiamava Omero. Al Politeama apriva anche il tetto per pigliare il fresco. Quando pioveva mi dicevano: Omero, chiudi! Se quando ci ripenso non ci credo nemmeno delle vissute. E come si viveva, Aldo, la passione cittadina per il Montevarchi quotidianamente? I montevarchini sono sempre stati attaccati alla maglia rossoblu, veramente, guarda. Perché a Montevarchi penso non ci sia società che in quegli anni lì avesse avuto 22-23 giocatori a mangiare, a dormire, stabili qui. C'erano di Bologna, di Milano, i bornesi, sempre quelli non mancavano mai, era come il sugo sulla pasta asciutta, e i bornesi non mancavano mai. Sicché Montevarchi ha sempre avuto una società abbastanza importante. Infatti, in cosa andavano, ci chiamava la squadra dei signori, sicché tu me l'hai detto ogni cosa. Oh, ragazzi, per gli altri aveva la borsina, ma lui aveva tutte le valigie o la striscia rosso blu quando si andava a giocare. Che siamo stati a giocare in certi campi, non ci mettere nelle mani. Però, come dice il proverbio, i tempi cambiano. Difatti gli ultimi 5 anni sono cambiati, perché sono andato a giocare anche a Salutio. Tra poco non c'erano nemmeno gli spogliatoi. Io, siccome c'ero, ho fatto anche il guardalinea per 2 anni per Montevarchi. Ora mi sono dato una calmatina. Però ci sono sempre ragazzi che sono nipoti, mi giovano, e allora per portare l'allenarsi con la storia un'altra. Comunque, quindi una vita passata fin dall'inizio intorno a campi di calcio. Poi io sono stato uno che ha imparato anche un mestiere, perché io avevo questo parente, faceva mobili. Io non perché ero un portiere bravo, però ero bravo anche a imparare questo mestiere. E con qui da quello lì mi sono trovato io senza problemi. Smesso di giocare, io trovavo che dovevo andare a lavorare, andavo a fare, capito? Infatti ho lavorato fino a 80 anni da qua, quanto tempo fa lavorare? A un certo punto era bene smettere. E più ho giocato in pallone, andava nei ambi sempre. Comunque, Fumino, è interessante secondo me pensare anche al fatto che comunque negli ultimi 5 anni, in un modo o nell'altro, siamo ritornati ciclicamente un po' dove s'era molti, molti, molti anni prima, almeno secondo quello che Aldo ci racconta. In effetti, Julian, hai ragione. La ruota gira, il carretto torna, come si direbbe in certi ambiti, e anche noi siamo tornati a passare da campi in cui Aldo, suo malgrado, era passato sia da giocatore negli anni 50 che poi da dirigente, da guardaline negli anni 2000. Quindi Aldo, le hai proprio viste tutte. Ecco, allora ci fu una partita a Montevarchi che io giocavo per la squadra, era Montevarchi Stia, va bene? Si vinceva 4-0. Questa è come racconta la novella. Tutto a un tratto arriva una cicogna, un aereo sopra il campo, tutto a guardare l'apparecchio, mi dicono non porta, e infilo dentro, ma ti rendi conto? No, la figura di merda, io non ho visto tanto. A quei tempi veramente si viveva anche delle cose belle, poi non posso ne raccontare tutte le avventure che ho fatto, se no una volta domattina siamo sempre io. Per tutti quelli che ci ascoltano e non sono di Montevarchi, probabilmente non sanno il ruolo in cui Aldo ha giocato dentro il Montevarchi Calcio e nella sua carriera. Aldo era infatti un portiere ed è ricordato come un grande storico portiere dell'Aquila Calcio 1902. Allora Aldo, secondo te, visto che prima in sede di preparazione della trasmissione ci raccontavi che a Montevarchi i portieri sono sempre cresciuti bene, chi è secondo te, per quello che ti ricordi e per la tua memoria storica legata alla tua carriera, il più grande portiere della storia del Montevarchi? Per me erano tutti bravi, veramente, guarda. Potrei fare qualsiasi nome, però sono stati tutti ragazzi che hanno giocato per quella maglia, tutti bravi. E ancora oggi, questi ragazzi giovani che ci sono 3 portieri, sono bravissimi tutti e 3. Sono giovanissimi, 1, 2 hanno giocato qualche anno, quasi tutti il campionato, 1. Diverse partite, quell'altro più giovane, e un altro è andato a giocare a Figline. Ma sono bravi tutti e 3. Se meglio non far nome per non dare, capito, meglio quello, meglio quell'altro. Beh, un nome però, il primo nome ti verrebbe in mente? Il primo nome, io. Va bene, ci sta. Vai, sono bello mio. No, guarda, io sono una persona che mi piace avere dialogo anche con i calciatori, anche se uno fa il portiere, consigliarli, perché uno dei spogliatori, ti posso fare il nome degli allenatori, sono sempre andato d'accordo con tutti, veramente, senza problemi. Però con portieri ho sempre consigliati a fare bene. Infatti i ragazzi hanno vinto gli ultimi 5 campionati, quando mi vedo, madonna, non ti dico addosso, capito? Anche se io, per dire, io ho fatto l'allenatore dei ragazzi, dei portieri, quando c'era anche Adami, quando si fece la scuola calcio, insomma, io sono andato a fare, però non voglio dire quello è meglio e quello è peggio. Politicamente correttissimo Aldo in questa sua risposta, non ci ha voluto dire qual è stato secondo lui il miglior portiere, perché tutti i portieri erano bravi e moltissimi erano montevarchini di nascita, vero, come ci dicevi sì, prima? Sì, moltissimi erano tutti nati a Montevarchi. Bene Aldo, e di conseguenza tu sei una persona che ha contribuito in svariati modi alla crescita del Montevarchi, e dopo la caduta epocale, praticamente si può dire del fallimento, hai addirittura contribuito alla rinascita della scuola calcio a Montevarchi. A quelle volte c'era Martinelli, Enzo, c'era Fesoli, c'era Curro, era presidente, e poi c'erano anche altre persone che si lavorò per fare questa scuola calcio e si cominciò a cercare ragazzi per farli venire a giocare. E da allora la scuola calcio oggi ha 300-400 ragazzi, non c'è Milano Sciolini, sicché volevo dire qualcosa si è fatta anche noi. No, più che altro sta dando anche grosse soddisfazioni a livello di risultati, insomma, appunto, è l'ultima stagione. Anche quest'anno volevo dire, non è che hanno fatto lo Sciolini, ma poi che è stato bello, dopo la scuola calcio, il Montevarchi è risorto, perché è stato rifatto la prima squadra. Io ho rivisto gente allo stadio che era... A tempi mia non ci veniva più, è ritornata tutta allo stadio, non ci crede nemmeno, guarda. No, no, questo è anche a testimonianza appunto di quello che avevamo detto anche nelle puntate precedenti, insomma, che in questa epoca sta ritornando una grossa passione per questo Montevarchi, grazie anche alla rifondazione post fallimento, dove i montevarchini hanno rilevato la società e sono ripartiti quindi dalle fondamenta per ricostruire una società sana che sta iniziando a dare dei frutti anche a livello di settore giovanile. E te Aldo sei stato testimone di questo, come sei stato, come dicevamo precedentemente, anche testimone di i tempi in cui ancora i Brilliperi non era neanche lo stadio ma si giocava in Piazza della Repubblica. Quindi è importante capire quanto è l'arco temporale che abbraccia la tua esperienza, diciamo. L'esperienza di Aldo, Julian, sicuramente è ampia e sconfinata. Sì. Addirittura se stessimo a parlare ininterrottamente tutta la notte probabilmente non basterebbe per arrivare alla fine della storia di Aldo. Però vorrei tornare un attimo all'Aldo giocatore, a quei tempi lì. Aldo, qual è stata la partita più bella che tu ti ricordi di aver giocato con la maglia del Montevarchi? Per me la partita più bella è stata con l'Antella. Che anno era? Era 57, voglio fare 56-57, ora di preciso non me lo ricordo. Perché in quella partita io mi ricordo parai, anche se mi buttavano addosso i cosi, il massaggiatore parava anche lui. Poi ne ho avute anche altre, insomma. A Montevarchi fare una partita in quella maniera e vincere la partita da soli, perché io se giocavo male o andavo male e stavo a Montevarchi mi girava le palle lunedì mattina, andavo in bar a pigliare il caffè. Aveva io ragazzo, a Montevarchi non era, insomma, la situazione non è come andare a giocare a Faella o a Piandisco. A Montevarchi andavo a entrare in campo. Poi io sono partito da giovane, non è che sono partito quando avevo 25 anni. Le partite avevo 15 anni, si è scritto Benedetto Niosa, e mi mettessimo lì, mi fecero assistere il primo campionato. Quando tornai da Badiano Salvatore, che c'era la Fiorentina in ritiro, l'anno dopo giocai in prima squadra io. Sicché c'era Denzi, centravanti, grande centravanti, quell'anno lì faceva 30 gol, poi andò a Cosenza a giocare in Serie B, in Serie C, che giocatore a Montevarchi c'è passato di mezzo di Dio. Ma calciatori, capito, di... Quindi anche in quegli anni a Montevarchi era una condizione migliore rispetto ai paesi intorno, anche a quei paesi che pensano di essere grandi. Quei paesi, ma chi giocava a quell'ora? La gente veniva a Castelnuovo, da Ponticino, in bicicletta per venire a vedere il Montevarchi, ma chi giocava? Non giocava nessuno, c'era il Montevarchi, l'Arezzo. Ci fu un periodo nel San Giovanni era nel nostro girone. Non era nel nostro girone? Ragazzi, che ora c'ho anche il gatto, tutti con la scuola calcio, ora Madonna che fa tutti dai Maradona, ma insomma lasciamoli perdere, va bene? Quindi negli anni 50 e negli anni a seguire, in Valdarno comunque, in questa zona di mondo, nella provincia di Arezzo, oltre ad Arezzo che era chiaramente una città molto più sviluppata, era solo Montevarchi che aveva la scuola calcio, che aveva i ragazzi, che giocava a calcio. La scuola calcio in quell'anno non aveva, però se uno voleva venire a vedere la partita bisognava venire a Montevarchi, perché non andava a vederla, o a Firenze o a Arezzo, perché per altri e giocare tutti nel campo del seminario rapido. Andiamo ragazzi, via, come fai? Ora se si va per ragionare, Montevarchi, Montevarchi. Ok, ma la partita contro l'Antella, una curiosità, ma quanto è finita? 1-0 per Montevarchi. Ma come finita? Ora te la puoi vedere, ma pigliate la macchina. Ora purtroppo a noi ci dispiace, per voi ascoltatori, noi vedremo le foto di Aldo, voi no, e questo è un problema. Ce le potresti raccontare anche tu? Andranno a comprare il centenario, se la vogliamo vedere, ci sono tanti, ci si devo. Quindi. O sa leggere le mie cose. Quindi nel libro del centenario Aldo Canale è molto presente. Io coglierei l'occasione per ringraziare e salutare Stefano Neri, che ci dà in uso la stanza dove registriamo qua a Montevarchi, la Galleria San Lorenzo. Quindi un grazie a Stefano Neri per la concessione. Però detto questo, chiaramente viene fuori un'altra storia di Montevarchi, della montevarchinità del passato. Aldo prima ci diceva che in questa strada dove noi stiamo registrando 50 anni fa abitavano praticamente tutti i calciatori del Montevarchi più importanti. Se te ne dico una, te non tu l'hai mai visto, la forse in fotografia quella l'hai visto, ma il vecchio campo c'era il signore di legno, c'era il casilla, ci teneva cavalli. Mi ricordo una domenica, uno fumava, quell'altro fumava, butti di sotto le sigarette e pensi proprio la tribuna. Sicché, che vi devo raccontare? Più di este io che vi devo raccontare, ragazzi? Come la Divina Commedia siamo partiti dall'inferno, però ultimo passaggio dell'inferno, raccontaci una cosa bellissima. È vero che un calciatore che ha giocato nel Montevarchi è stato scritturato come attore per il film L'allenatore nel pallone con Lino Banfi nella parte di Oronzo Canà. Sì, è stato anche a Montevarchi a girare al campo sportivo, sicché non è che vi racconto le novelle. Era solo per sapere se veramente una persona che ha giocato nel Montevarchi ha recitato in quel film. E tu ce lo confermi? Per parlare. E come dice sulla, conoscevo Pazzafini, Pazzafini la scuola di Giannini, perché quando si giocava contro il campionato lì che c'era il San Sepolcro, loro vinsero il campionato e avevano questi giocatori. L'anno dopo si prese in Montevarchi, tutti e tre, Ascolini, Giannini e Pazzafini. Oh, ma il campionato non si vinse nemmeno quell'anno, ci chiamavi le termi secondi. Poi Pazzafini, oltre a fare il giocatore, era una bestia quasi di due. Quando ci salva, mi chiamava sempre, tirava certe botte, ma mi voleva un bene, rimasto a matti. Poi andò di Roma lui, si messe a fare la comparsa e cominciò a girare film con Giuliano Gemma. Bene, siamo quasi arrivati alla conclusione, però come dicevi te in apertura, giustamente Fumino, noi questa trasmissione la volevamo dedicare ad uno dei giocatori più rappresentativi, uno dei montevarchini più rappresentativi, che ha giocato anche con il nostro Aldo qui presente. Sì, come giustamente ricordi tu Julian, questa puntata è dedicata a Pan Bianco, ovvero Aldo Scaramucci, che a Montevarchi probabilmente è il calciatore che in attività durante la sua carriera, seppur breve quella di Aldo, ha raggiunto risultati che nessuno mai ha più raggiunto né prima né dopo, vale a dire la finale di Coppa dei Campioni giocata niente poco di meno che in quell'occasione al Santiago Bernabéu di Madrid, con un compito a dir poco proibitivo, vale a dire la marcatura d'uomo, come si usava ai tempi, di Stefano con la Fiorentina. Tra l'altro, dopo aver vinto, Aldo Scaramucci nella rosa della Fiorentina c'è stato per circa 4-5 anni il primo campionato della Fiorentina, poi quindi giocando la Coppa dei Campioni, tra l'altro sì, la Coppa dei Campioni, quella che oggi è la Champions League, tra l'altro giocando molte partite in quell'anno lì, soprattutto le due semifinali con il Grasshopper si ricordano moltissimo per la qualità di giocatore di Aldo, e nella finalissima contro il Real Madrid la marcatura addirittura di Di Stefano, che era ai tempi l'attaccante più titolato che ci fosse in attività, come dire oggi Cristiano Ronaldo oppure Messi, insomma, ecco, per farvi capire, un calciatore di quella caratura lì. E Aldo Canali è stato compagno di Aldo Scaramucci. Bene, Aldo, per chiudere questa puntata, un ricordo breve di Aldo Scaramucci uomo, di Aldo Scaramucci calciatore. Aldo Scaramucci per me era un bravo ragazzo, aveva un carattere un po' chiuso, però andrebbe fatto quella cosa. Quando giocava faceva il suo, però come persona era bravissimo. Bene, grazie Aldo di questo ricordo. E detto questo, direi che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Ci risentiremo come sempre fra una settimana sulle frequenze di Radio Big World da Fumino e da Julian Carax, con un ringraziamento anche per il nostro regista Martin Scorsese. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo, con un ringraziamento anche per Aldo Canali. Sì, perché a molte parti dei canali non è che ce ne sia tanti, c'è un figliolo e basta. Se tu vai a Lucca tu li trovi, ma a molte parti non c'è nessuno, nemmeno i miei nipoti, perché c'è uno solo dei miei nipoti, ma non è molto buono. Non è un grande giocatore, non è uno che porta il mio nome. Io vi saluto tutti, grazie e buonanotte. Da giocatore? Sono tutti da fuori, noi di Cinecce. Sono quindi in due scienze mele, come lo vedi io. Ma se mi ricordo, ho già un grande giocatore. Ancora, sono il pistolo che faccio tutti. Piscite, lo sai dove è piscite? Era un uomo che non era uno di abitato che dormivo, però quando io avevo che facevi il mio. Allora tu sei proprio imbecille di poi. Partita con bella mia? Aspetta. Tanto pensaci. No, non ci penso. No, aspetta, guarda. Mario. Quando era nella prova di resina della sua mia babbo, a Montevarca, perché diceva, non siamo a Montevarca, tanto la venata arrestata, andava a Roma con lui, che non si è giocato di cielo. Arosso. Sì. Ma chi era questo? Uno di Montevarchi? No, era un Maresci. Lui veniva da Bari a giocare a Montevarchi. No, no, questa non l'ha detto. No, dai. Come no? No, no, no, no, no, no. Ma no, tranquillo, senza dire le polli. Come la divinava il media? Ora, ok, allora come la Divina Commedia? Siamo partiti. Ho preso il rotolone, ha visto che ci ha messo a scrivere. E così poi io. Ora ti racconto questo e dopo ci farà quell'altro.